Ciao a voi. Allora, l'ultimo articolo, insomma, patto militare Italia-Israele, un accordo scellerato e illegale. Se ti va, insomma, di raccontarci un po' quello che sta succedendo anche in visione di questi meeting, di questi incontri che sono sempre più frequenti tra Italia e Israele, di questi patti che si stanno consolidando sempre più, soprattutto sull'aspetto militare. Sì, purtroppo la partnership Italia-Israele si è molto sviluppata negli ultimi mesi dal punto di vista dello scambio degli strumenti di guerra, strumenti d'attacco, strumenti di morte, e dal punto di vista anche dello scambio nella formazione dei reparti militari scelti. L'Italia ha effettuato diverse esercitazioni, le forze armate italiane, penso all'aeronautica e anche all'esercito in Israele, nel deserto del Negev, e c'è stata anche una grossa esercitazione recentemente in Giordania, un'esercitazione multinazionale in cui si è simulato molto probabilmente proprio un attacco alla Siria, e ovviamente anche molto degli scambi nella formazione effettuata in questi ultimi mesi vedono al centro l'obiettivo strategico della Siria e dell'Iran, su cui Israele sta puntando tantissimo per aumentare e garantirsi la totale egemonia sul fronte medio orientale. Contemporaneamente l'Italia ha ospitato reparti d'élite delle forze armate israeliane, penso principalmente in Sardegna, utilizzando i grandi poligoni militari di questa regione, l'aeroporto di Decimo Mannu, anche questo per la sperimentazione di vere e proprie strategie di attacco e di bombardamento che Israele è solita fare sul fronte medio orientale, in Libano, a Gaza, come probabilmente ha fatto in questi mesi anche sul fronte siriano. Senti, tu vivi anche in Sicilia, insomma, per quanto riguarda tutta una sperimentazione che stanno facendo anche nel cosiddetto Mare Nostrum o sulle coste siciliane, ci puoi dare anche aggiornamenti su questo? Allora, fino a questo momento su Israele, sulla partecipazione o la compartecipazione all'operazione Mare Nostrum, non ci sono dati particolari. Sicuramente sappiamo che la Marina Militare Italiana ha ulteriormente rafforzato il dispositivo e anche in questo senso la partnership con tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo, a cui continuiamo a fornire armi, a cui continuiamo a fornire formazione proprio in quella che è la guerra ai migranti. Guerra ai migranti a cui tra l'altro Israele ha contribuito in passato, nei mesi scorsi, fornendo direttamente i famigerati e radar antimigranti alla Guardia di Finanza, che sono stati installati in Sicilia, in Sardegna e in Puglia, perché ovviamente al dispositivo di morte, di istruzione delle navi, degli aerei, eccetera, concorre anche l'intelligence dal punto di vista satellitare, radar, e in questo senso Israele ha una egemonia industriale e produttiva a livello internazionale, e ovviamente le forze armate italiane e le forze di polizia attenzionano particolarmente, e come nel caso degli antimigranti acquistano. Allora Antonio, abbiamo affrontato nel precedente intervento quello che è sicuro un aspetto fondamentale, il fatto che alcune lotte poi di fronte a un attacco che ricevono dall'alto, ed è un unico attacco che oggi distinguiamo come Israele, che insomma in quanto a campo di sperimentazione e laboratorio ha utilizzato la Palestina su una sperimentazione facendo di armi da guerra, ma entrando nello specifico anche di droni che oggi ritroviamo nel nostro quotidiano. Sappiamo che sei impegnato a livello abbastanza profondo in quello che è la denuncia e la ricerca rispetto al mostro Muos. Se vuoi sicuramente dirci qualcosa in più. Ma innanzitutto concordo perfettamente, hai toccato un punto importantissimo, quello dei droni. Israele è uno in questo momento dei paesi principalmente al mondo produttori di tecnologia, di droni spia, cioè quelli che hanno il compito di individuare obiettivi per poi ordinare l'attacco, e sia dei cosiddetti droni killer, quelli che imbarcano sistemi d'arme, sistemi missilistici e che poi vengono utilizzati contro obiettivi nel 90% obiettivi civili. I droni Israele li ha utilizzati particolarmente ai confini, intervenendo direttamente a Gaza, nella West Bank, in Libano, ripeto ancora una volta probabilmente in Siria, per cui in questo senso l'Italia guarda con estrema attenzione anche a queste tecnologie, ed è in atto a livello europeo la creazione di consorzi tra le industrie, tra le principali industrie produttrici di armi europee, penso particolarmente a quelle franco-tedesche e Israele, proprio per l'implementazione di droni killer in Europa, droni che ovviamente avranno anche una loro funzione dal punto di vista dell'individuazione di barche di migranti nell'accelerazione dei processi di militarizzazione del Mediterraneo. Rispetto al MUOS, che è un sistema di telecomunicazioni satellitari a uso esclusivo e di proprietà delle forze armate americane, l'Italia, anzi la Sicilia in particolare, come nel caso dei droni, è uno dei quattro punti strategici dove le forze armate americane pensano di implementare questo strumento, che avrà proprio il compito di dirigere e di coordinare le guerre del XXI secolo, guerre automatizzate dove ovviamente i droni, gli aerei senza pilota, i missili cruise, quelli da crociera imbarcati nei sottomarini, unità navali, avranno un ruolo determinante per garantire la superiorità delle forze armate americane e la distruzione ovviamente di qualsiasi avversario a livello planetario. Ascolta, vediamo sgomitare il fiore all'occhiello dell'industria italiana, Finmeccanica. L'ultimo accordo di cui so qualcosa è sicuramente rispetto alla cessione degli M346 ad Israele. E volevo sapere se in previsione dell'Expo 2015 a Milano, dove il padiglione di Israele sarà affiancato da quello di Finmeccanica, c'è all'orizzonte qualche altra collaborazione o se si fiuta qualcosa? Quello che sappiamo è che soprattutto dal punto di vista delle nuove tecnologie, delle cosiddette per guerre cyber, sul fronte ovviamente delle guerre ai migranti, dei sistemi radar, di telerilevamento e dei sistemi di droni, sicuramente le industrie italiane guardano con estrema attenzione a Israele. Del resto, come giustamente ricordavi, la vendita di questi caccia addestratori, che possono comunque essere utilizzati anche in vere e proprie operazioni di attacco prodotti dalla Alenia Armachi, avvede anche in cambio il trasferimento di sistemi satellitari e di aerei spia al nostro paese. Di fatto molto più che un soltanto una export, ma di fatto anche un'importazione di queste armi importantissime dal punto di vista dell'intelligence. Ovviamente Milano sarà una grande vetrina a cui le forze armate italiane, Finmeccanica e ovviamente il grande complesso militare industriale, di cui vede ovviamente Israele un ruolo determinante, potranno sicuramente sfruttarlo, e proprio per questo credo che l'appuntamento di Torino di fine novembre sia fondamentale per lanciare campagne che impediscano di fatto l'utilizzo del nostro paese per promuovere il modello di guerra, il modello bellicista di Israele. A questo vorrei aggiungere che sicuramente stanno sviluppandosi enormemente in quasi tutte le università italiane rapporti di scambio, rapporti di collaborazione tra le facoltà, ovviamente nella maggior parte dei casi facoltà scientifiche, facoltà di ingegneria, dove ovviamente la ricaduta della ricerca è principalmente sul fronte militare. Anche su questo credo che in Italia vada aperto veramente un osservatorio su quello che si sta verificando nell'università, università che paga processi di privatizzazione e che oggi ovviamente paga anche dal punto di vista della militarizzazione. Tra l'altro, nell'incoscienza totale di chi poi magari porta avanti pezzetti di ricerca senza riuscire a costruire poi l'origine, il finanziatore e lo scopo finale della ricerca stessa. Diciamo che questo è un meccanismo che l'Accademia Italiana, con l'ingresso dei privati, ha instaurato nel peggior modo possibile. Noi ovviamente ti ringraziamo e crediamo che il tuo intervento sia stato in grado di racchiudere quello che un concetto che ha, diciamo, Vittorio Arrigoni diceva con una frase: la Palestina può essere anche fuori dell'uscio di casa. E quindi, se vediamo qual è la sperimentazione del dominio sionista sulla popolazione palestinese, riconosciamo le stesse, diciamo, gli stessi meccanismi e le stesse armi contro i primi esclusi, i migranti e le migranti, ritroveremo nel nostro quotidiano sempre più presente questo stesso sistema di